4 essenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, poem, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream. Spread themselves before me, an offering so sweet, and they beckoned, and they beckoned, come on, darling, eat. Eat the summer cannibals, eat, eat, eat, you eat the summer. Acceneremo oggi alla critica cinematografica femminista, ad una parte ovviamente, e lo faremo partendo da un articolo di Anneke Smelik, articolo pubblicato in The Cinema Book di Pam Cooke e Mieke Berning del British Film Institute del 1999, che abbiamo tradotto e riassunto, e dall'articolo femminista dell'articolo Feminist Film Theory, un'introduzione di Anna Deborah Morabito, e poi dal libro Alice Doesn't, Feminist Semiotics Cinema di Teresa De Lauretis. Affronteremo solo alcune parti ovviamente del discorso ben più ampio e complesso. Per questa puntata poi abbiamo pensato di deliziarvi con delle canzoni che fanno parte di colonne sonore di film che a noi sono piaciuti particolarmente e di cui però non vi sveleremo i titoli. Quindi provate a indovinare a quali film si riferiscono. Cominciamo con la prima canzone. We are prepared to give our blood. La critica cinematografica femminista ha avuto, a breve tempo di distanza dalla sua nascita, riconoscimento accademico. E l'ambito accademico fu luogo fondamentale di elaborazione e diffusione del pensiero femminista sul cinema. Pur non costituendo una disciplina a sé, la critica cinematografica femminista ha influenzato il linguaggio e la metodologia di indagine delle altre discipline, sconfinando dal proprio campo di indagine e invadendo, grazie alla sua ricchezza di analisi, altri ambiti e il pensiero teorico in generale. Molti utilizzavano il linguaggio e la metodologia dell'analisi della critica cinematografica femminista. La critica cinematografica femminista utilizzava la psicoanalisi come strumento critico per evidenziare e rendere visibile il nesso tra l'ideologia patriarcale e la struttura, nonché i contenuti del linguaggio cinematografico. Attraverso l'analisi del testo filmico si rendeva evidente l'apparato ideologico che presupponeva il soggetto assoluto e universale di sesso maschile e si mettevano in discussione i suoi assunti assiologici. La critica cinematografica femminista ha analizzato molto attentamente le tecniche cinematografiche e la pratica filmica attraverso la quale la realtà viene costruita e ideologizzata. Il cinema è inteso così come una pratica culturale attraverso la quale il genere viene rappresentato e attraverso questa rappresentazione viene costruito e viene costruito in modo del tutto particolare. Le prime osservazioni, le prime analisi che le femministe fecero dagli anni 70 agli anni 80 si riferivano al modo in cui venivano rappresentate le donne nel cinema, soprattutto nel cinema hollywoodiano. Le immagini femminili stereotipate erano e sono, diciamolo, delle evidenti distorsioni che influiscono anche sull'immagine che le spettatrici, identificandosi in esse, avevano ed hanno di sé. Quindi il lavoro che alcune femministe iniziarono a mettere in atto fu di rappresentare immagini di donne in positivo. Ben presto però risultò evidente che questo non era sufficiente, che la struttura della rappresentazione filmica, del racconto filmico, rimaneva tutto sommato inalterata. Quindi il potere pervasivo dell'immaginario patriarcale era molto più complesso ed è molto più complesso e articolato, e quindi furono necessari, e sono forse anche oggi necessari, strumenti di analisi più raffinati. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten und das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieber nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. ich kann halt lieber nur und sonst gar nichts. La prospettiva semiotica e psicoanalitica di impostazione strutturalista fu, per individuare strumenti più funzionali di analisi, molto utile ed interessante. Claire Johnston, partendo da una prospettiva semiotica, spiegò come il cinema costruisse un'immagine ideologica della donna. Partendo infatti dalla nozione di mito che diede Roland Barthes, Johnston studiò il mito della donna nelle rappresentazioni cinematografiche. Detto in parole povere per Barthes, il mito che lui ritiene sopravvive e faccia parte ancora della contemporaneità è la trasformazione di una visione parziale e culturale in qualcosa di naturale e dato. È una costruzione che si autoproclama come verità assoluta e inoltre non è ciò che comunica, ma una sorta di metalinguaggio. Il segno donna può dunque per Johnston essere analizzato come una struttura, un codice, una convenzione. Il segno donna è, secondo Johnston, il significato ideologico che la donna ha per l'uomo e non ha alcun valore o significato in sé. Le donne sono non uomini. Lucy Rigaray, in modo davvero efficace, diceva in Speculum che la differenziazione dei due sessi muove dalla priori del medesimo, dalla riproduzione speculare del medesimo. Thank you. Il cinema, e ci riferiamo ovviamente al cinema narrativo classico, diciamo, allora si svela per quello che è, per la perpetrazione e assolutizzazione di un punto di vista particolare sulla realtà. Ovviamente non facciamo riferimento a tutto il cinema. Un punto di vista che non si svela mai per quello che è, che cela le sue tecniche di produzione e nasconde la sua costruzione ideologica, che rappresenta la sua costruzione delle donne come reale, naturale, indiscutibile e seduttiva. Ma vediamo come spiega Laura Mulvey, autrice di un testo fondamentale per la critica cinematografica, Visual Pleasure and Narrative Cinema, teorica e critica cinematografica femminista, Laura Mulvey. E quindi come spiega lei questo processo di costruzione dello sguardo e quindi anche del desiderio. Laura Mulvey sostenette, utilizzando la psicanalisi come strumento d'indagine, che il film produce dei piaceri che offre allo spettatore, piaceri che sollecitano la capacità di desiderare, piaceri che si delineano al maschile, che propongono una divisione speculare fra soggetto attivo dello sguardo maschile e soggetto passivo dello sguardo femminile, diremo oggetto meglio. Mulvey parla della gerarchia sessuale dello sguardo e ne parla usando il linguaggio della psicanalisi, linguaggio che da questo momento in poi sarà usato ampiamente nella critica cinematografica e nella teoria della cultura in generale. Secondo Mulvey, il cinema stimola il desiderio di guardare e integra le strutture del voyeurismo e del narcisismo nella storia e nelle immagini. La visione dell'altro come oggetto e il piacere dell'autoidentificazione che la figura dell'immagine con la figura dell'immagine si inseriscono profondamente nella struttura narrativa filmica. Mulvey chiama questo scopofilia, un meccanismo che si articola su di un asse ai cui estremi troviamo attività e passività, soggetto e oggetto, aggiungiamo noi. Il maschio attivo, dunque, è il soggetto intorno al quale viene dispiegata l'azione drammatica e attorno al quale viene organizzato lo sguardo. La femmina, invece, è l'oggetto passivo di visione. La tecnica di visione cinematografica è impostata sul desiderio maschile, una tecnica che viene articolata secondo tre livelli dello sguardo, macchina da presa, personaggio e spettatore, in modo tale da oggettivare il carattere femminile e consentire al personaggio maschile l'identificazione con il personaggio che si trova al centro dell'azione. Cosa deve fare allora il cinema femminista, secondo Mulvey? Liberare lo sguardo della spettatrice, distruggere il piacere visivo dello spettatore, così come è delineato, definire un'altra dimensione spazio-temporale in cui lo sguardo femminile possa trovare espressione e senso. Un esempio del modo in cui è possibile delineare una nuova economia dello sguardo sono, secondo Mulvey, il film di Chantal Akerman, Jean Dillman, 23 Quai du Commerce 1080, Bruxelles, Belgio 1975, di cui tra poco parleremo. L'enigma della Sfinge di Laura Mulvey e Peter Wallen del 1978 e ancora Thriller di Sally Potter del 1979. Treue hält niemals, was sie uns verspricht. Denn sie vergeht wie die Nacht. Glück bringt die Jagd nach der Sinneslust nicht. Uns hat ein Engel bewahrt. Wenn's auch mal schwer wird, wenn's auch mal schwer wird, nichts scheint mehr gut. Mach dieses Lied wieder Mut. Bleibt dir das Glück fern, wenn du es auch jagst, schleicht sich davon wie ein Dieb. Wenn du mich nach einem Lichtblick dann fragst, dich hab ich immer noch lieb. Wenn's auch mal schwer wird, nichts scheint mir gut, mach dieses Lied wieder Mut. Da quanto detto precedentemente, si potrebbe dedurre allora, e si è dedotto da più parti, che lo sguardo femminile è all'interno di questa struttura significante impossibile, che il desiderio femminile non ha potere e possibilità di espressione, esistenza, e che il femminile non può esistere se non come oggetto di visione. In realtà, come molte teoriche hanno mostrato, le cose stanno diversamente. Una parte della critica cinematografica femminista si dedicò alla ricerca di forme diverse di spettatorialità. Mary Ann Don, in Film and the Masquerade, Theorizing the Female Spectator, fa riferimento per esempio al mascheramento. La spettatrice, per mantenere una distanza con l'immagine filmica, per non aderirvi, può mascherarsi fisicamente. Furono poi messi in evidenza testi filmici di registe come Laura Mulvey, Yvonne Rainer, Lizzie Borde, i cui film rappresentavano momenti significativi di rottura con i codici dominanti, con l'economia della visione dominante, e che proponevano un'altra misura del desiderio, come diceva Mulvey, per il soggetto femminile. Un testo fondamentale per la teoria del cinema è quello di Teresa De Lauretis, Alice Doesn't, Feminism, Semiotics and Cinema, nel quale l'autrice asserisce che i simboli, i valori presenti nel linguaggio, anche nel linguaggio cinematografico, sono connessi alla soggettività. Il soggetto è in relazione continua con il significato che viene veicolato, ne è implicato ed è implicato personalmente nel processo di visione attraverso l'immagine e l'immaginario. Il linguaggio, il cinema, sono strumenti di costruzione del soggetto, allora, strumenti in relazione col soggetto stesso. Detto diversamente, mentre guardiamo un film, assistiamo ad uno spettacolo, leggiamo un libro identificandoci o rifiutando di identificarci con i caratteri rappresentati. Costruiamo noi stessi e lo facciamo non in modo lineare, assorbendo ciò che ci viene proposto, rinnegandolo completamente. Piuttosto, De Lauretis parla di pratiche di resistenza e contraddizione, suggerendo un processo molto più complesso ed interessante. Esistono, dice De Lauretis, delle rappresentazioni cinematografiche, per così dire lineari, articolate in modo chiaro, semplice. Altre invece, come i film di Nicholas Roeg, in cui la rappresentazione è contraddittoria, eccessiva, ambigua, in cui il soggetto non si esaurisce nel racconto. Ciò che la teoria femminista dovrebbe fare è, dice Teresa De Lauretis, inserire nelle narrazioni lineari una voce critica e creare un effetto di dissonanza, un eco discordante, dice, che rompa la coerenza interna di questi discorsi e ne dislochi il significato. In questo modo si dimostra la non coincidenza della donna con le donne, si destabilizzano le rappresentazioni alterandone i significati. Le strategie di scrittura e lettura, dice De Lauretis, sono forme di resistenza culturale, anche le strategie di visione ovviamente, che producono le condizioni di visibilità per un soggetto sociale diverso. Il cinema è dunque, dopo aver detto tutte queste cose, una pratica di significato. E il significato è un processo discorsivo in cui rilevano molteplici aspetti: la posizione della spettatrice, le condizioni di ricezione, cioè di chi riceve il messaggio, e di enunciazione, la posizione di chi appunto dice, le diverse situazioni comunicative, i diversi contesti all'interno dei quali le situazioni, la comunicazione avviene, eccetera. La spettatrice non è solo quindi nel testo oppure fuori dal testo cinematografico, dice Teresa De Lauretis, piuttosto interseca il film e il cinema come pratica di significato e quindi partecipa alla produzione del soggetto, non è solamente passiva quindi, né completamente attiva. Il soggetto è implicato ad ogni livello, fisico, visivo, percettivo, cognitivo, corporeo. Parleremo oggi del film di Ackerman, di cui parlavamo precedentemente. È un film scritto e diretto dalla regista belga Chantal Ackerman nel 1975, della durata di 3 ore, pochissimi dialoghi, altrettante le ambientazioni. Il film si svolge quasi completamente a casa di Jeanne. Il film è girato tutto in piano sequenza, la macchina da presa ferma, posta leggermente in basso davanti alla protagonista o alla sua altezza, come a non volerla sovrastare. Jeanne va in cucina, nel corridoio, nella sala da pranzo, nella sua stanza. Scene molto lunghe in cui sembra non accadere nulla ed in questa apparente assenza di fatti significativi il film procede nella discreta osservazione della protagonista. Seguiamo Jeanne nelle sue azioni quotidiane, che compie con precisione, scandendo il tempo della sua giornata. Precisione di cui sembra compiacersi. Mentre la osserviamo in cucina, lei cambia stanza e spegne la luce. Rimaniamo al buio qualche istante, un istante spiazzante, in cui ci chiediamo dove sia e cosa stia facendo. Il tempo che lei cambi stanza e ci consenta di vedere cosa sta facendo. Il tempo è un elemento cruciale nel film, è il tempo di Jeanne, il tempo che lei scandisce con tanta precisione, quasi maniacale, o meglio rituale, così come rituale sembra il modo in cui compie le sue azioni, con un ritmo costante, quasi ipnotico, affascinante. In questo modo la regista procede destrutturando il tempo della narrazione. Il tempo del film è il tempo reale che coglie la realtà nel suo farsi. Non c'è attesa di eventi significativi, o meglio, il film delude questa attesa, lasciando spazio ad un altro linguaggio, ad un altro modo di raccontare il tempo. Lo sguardo, inizialmente un po' perso dalla spettatrice, si dirige piano piano verso una minuziosa e attenta osservazione dei gesti di Jeanne, fino a rimanerne quasi incantato, fascinato. Gesti a cui viene dato spazio per essere raccontati, visti, sottraendoli dal buio. La macchina da presa non invade mai lo spazio della scena di Jeanne, è sempre posta alla stessa distanza col suo sguardo attento e discreto, che non vuole raccontare, ma lascia farsi raccontare. Non insegue mai Jeanne nei suoi movimenti, spesso lei è fuori dalla scena, vediamo solo un braccio o la sentiamo compiere azioni e quando la camera si sposta è Jeanne che accende la luce. È lei che decide di accenderla per vedere. Jeanne, dicevamo, è meticolosa nelle cose che fa, usa gli oggetti e li ripone. Jeanne dedica parte della giornata a prostituirsi. Vediamo un uomo che lei accoglie in casa, prende il suo cappotto, lo mette a posto e si reca con lui nella sua stanza. Li vediamo riapparire nella scena seguente. Escono dalla stanza, lei gli rende il cappotto, prende i suoi soldi e si salutano con un gesto quasi affettuoso. Jeanne li ripone nel vaso situato nella sala da pranzo e riprende a fare la spesa, a cucinare, a prendere un caffè. L'assenza di movimenti della macchina da presa ci consente di ascoltare i suoni, di guardare con attenzione i suoi movimenti. Il silenzio è rotto solo dal movimento degli oggetti che lei usa, dal movimento dei suoi passi. È un silenzio all'inizio disarmante, ma che diventa presto denso e quasi rilassante. The phone will ring or the phone won't ring. I'm gonna sit here either way and pretend I don't miss anything about you. I could spend half of my life wondering why everything that means the most I let fly from my shoulder. I let it go. La camera, la spettatrice che segue i suoi gesti, il suo ritmo, i suoi tempi, ben presto finisce per rimanerne affascinata, presa da una piacevolezza mai satura, nonostante la ripetitività delle azioni. Ci si scopre ad osservare i piccoli gesti del suo capo, i movimenti impercettibili degli occhi, le mani, il resto è fermo, ci costringe quasi a guardarla in silenzio. La vediamo mentre prepara la cena, mentre si pettina, mentre legge il giornale, inforca gli occhiali, mentre si fa il bagno dopo aver ricevuto il suo cliente, mentre lava la vasca, mentre accende la luce, spegne la luce, la osserviamo attraverso lo specchio dell'ascensore ed è l'unica volta in cui capiamo che la telecamera le è accanto, pur dando l'impressione della giusta distanza. La vediamo abbottonarsi uno ad uno i bottoni del grembiule. Lo scorrere pacato del tempo però ad un certo punto viene turbato da qualcosa. È il secondo giorno in compagnia di Jean. Ha appena ricevuto un altro cliente, lo accompagna alla porta, ma dimentica di accendere la luce, forse non vuole accenderla. Qualcosa è successo, qualcosa sembra aver turbato la sua routine. Inizia a perdere il controllo su quello che le sta attorno, sugli oggetti, sul suo tempo, sullo spazio. Si reca in bagno, si sposta in un'altra stanza, ma dimentica di spegnere la luce. Torna indietro e la spegne. Si accorge di aver cotto troppo le patate, le pommes de terre. Si reca in bagno con la pentola, forse per gettarle nel water, ma poi cambia idea, torna in cucina e le getta nella spazzatura. E allora ricomincia da capo, vuole cuocerle di nuovo, ma si accorge di non averne più. Deve uscire e andarle a ricomprare. Torna a casa, ma le patate non saranno pronte per il solito orario e la cosa sembra turbarla. Mentre le sbuccia, allo sguardo perso, è visibilmente turbata. Cos'è successo? Forse è successo qualcosa nella stanza. Forse quell'uomo le ha preso troppo tempo e le ha scombinato i suoi ritmi. Comunque sia, si legge la rabbia sul suo volto e un profondo scoramento, un'inquietudine. La sua routine è stata interrotta. Dimentica di accendere la radio, prova a scrivere, ma non riesce. Gli oggetti intorno a lei iniziano a essere disordinati in maniera quasi impercettibile, ma Jean ci ha abituate al suo ordine rigoroso. Pertanto riusciamo a scorgere che qualcosa non è al suo posto. La custodia degli occhiali e il giornale sul tavolo non li ha rimessi al suo posto. Il terzo giorno, l'ultimo a cui assistiamo, Jean si sveglia molto prima del solito, continua ad esitare nei suoi gesti. Le azioni sono sempre le stesse, ma lei sembra averne perso il controllo, sembra non averne più padronanza degli oggetti, sembra aver perso il piacere di compierli, non ha più nessuna consolazione o soddisfazione, si abbottona la vestaglia, ma dimentica un bottone, le sfugge la spazzola di mano mentre lucida le scarpe del figlio. Continua ad accendere la luce laddove non ne ha bisogno e a dimenticarla accesa nelle diverse stanze della casa. Le cade il cucchiaino di mano mentre asciuga le posate. Sembra non essere più padrona del suo tempo. Esce troppo presto. I negozi sono ancora chiusi. Torna a casa, prepara il polpettone e poi siede in cucina a fissare il vuoto. Si alza, prende un bicchiere, ci versa del caffè, aggiunge il latte, lo assaggia, non le piace, lo butta nel lavandino. Ci riprova, forse il latte è andato a male. Lo versa in un altro bicchiere, lo assaggia, le sembra buono. Vi aggiunge il caffè, ma no, lo butta di nuovo via e rifà il caffè. Non ha più lo stesso sapore. Siede in poltrone e aspetta che il tempo passi. Arriva un altro cliente. Stavolta entriamo nella stanza e assistiamo. Subito dopo, mentre lei si riveste, osserviamo lui che la osserva attraverso lo specchio. Stavolta vediamo uno sguardo invadente, uno sguardo maschile che scruta il suo imbarazzo e la sua discrezione. Jean esce dall'inquadratura e vi rientra per ucciderlo, infilandogli le forbici alla gola. La ritroviamo seduta nella sala da pranzo, con le mani sporche di sangue, che sospira e sembra a tratti ritrovare un po' di quiete. La osserviamo così per diversi minuti e così il film si chiude. Nello scritto di Gillian Swanson, intitolato Building the Feminine, sulla costruzione del soggetto femminile nel cinema, la femminilità nei film viene solitamente rappresentata come assenza all'interno di una modalità di trasmissione in cui i contenuti del film sono rivolti esclusivamente alla soggettività maschile. Cosa significa allora per le donne rapportarsi alla femminilità espressa nel cinema? Le categorie di genere che riflettono la maschilità e la femminilità nel cinema fissano e polarizzano la differenza sessuale. Le teoriche femministe hanno tentato di scardinare queste categorie, esprimendone le relazioni contraddittorie e concentrandosi sulle differenze tra donne e quelle che costituiscono la soggettività femminile. Allo stesso tempo si è focalizzata l'attenzione sull'importanza che la soggettività femminile nel cinema assume per la spettatrice e il rapporto che quest'ultima stabilisce con la femminilità che il cinema rappresenta e la sua stessa storia individuale. Nel suo intervento intitolato Desire to Desire, incentrato su un'analisi meticolosa della cinematografia delle donne degli anni 40, Mary Ann Dawn descrive le diverse forme di rappresentazione della femminilità nel cinema e in che modo esse si rivolgono alla spettatrice. Le donne, in quanto consumatrici e significanti della modernità, assieme alla sessualità ribelle costruita dal discorso medico come femminilità disfunzionale, vengono costruite come soggetti patologici. Questa soggettività è il risultato di frammenti discorsivi diversi che cercano di costruire un discorso coeso, un'unità discorsiva. Da questa analisi risulta che l'identità femminile è costruita in rapporto ai sistemi sessuali tradizionali. La cinematografia femminile, secondo Dawn, dal momento che si rivolge ad un pubblico di spettatrici, sollecita lo sguardo femminile su immagini femminili. Nelle rappresentazioni cinematografiche prevalenti, che privilegiano il punto di vista maschile, le donne vengono viste attraverso uno sguardo voyeuristico e feticistico, dove la narrativa ha la priorità sull'immagine. Tuttavia, la cinematografia femminile può iscrivere la femminilità in modo diverso e cercare di trovare una soluzione al problema dell'immagine femminile, tradizionalmente intesa come solitamente come incompleta o deficitaria. In che modo? Dal momento che la femminilità nel cinema è prodotta attraverso l'immagine, resiste alla narrazione e smonta la coerenza del testo. In sintesi, il narcisismo più marcato dell'immagine femminile permette alle spettatrici di identificarsi con l'immagine piuttosto che con la narrazione e suggerisce l'impossibilità di separare soggetto e oggetto cinematografico ai fini della costruzione di una soggettività. Se la femminilità è associata all'immagine, allora è attraverso di essa che assume significato e di conseguenza l'unica identificazione possibile per la spettatrice è quella diretta al corpo. Nella cinematografia femminile questo corpo è de-erotizzato, per cui la spettatrice si identifica con un corpo che non ha più i segni della femminilità intesa in senso maschile. Desessualizzare il corpo femminile significa percepirlo come altro e porlo al di fuori dello sguardo voyeuristico maschile e distante attraverso cui la spettatorialità femminile non può e non deve essere costruita. L'impossibilità per le spettatrici di vedere rappresentata una posizione femminile diversa nel cinema nega loro uno spazio di lettura diverso. Quindi all'interno della struttura patriarcale, in cui la distanza dal corpo materno è il prerequisito necessario del desiderio, l'incapacità delle donne di percepire il corpo femminile come sessualmente altro produce una relazione deficitaria che le donne hanno generalmente con il linguaggio e con la costruzione della loro soggettività. Laddove le donne, appunto, nel cinema vengono descritte solo come oggetto, possono soltanto rappresentare il desiderio maschile. Le spettatrici, quindi, non avendo accesso ad una soggettività desiderante attiva, diventano oggetto di desiderio passivo. Lo sguardo della spettatrice, secondo Don, può riformulare la soggettività desiderante femminile nel cinema e articolare in questo modo, in modo diverso, la soggettività femminile. Siamo ai saluti, siete riusciti a indovinare a quali film si riferiscono le canzoni? Se è così avete vinto la possibilità di guardarveli. Se invece volete l'aiutino o volete commentare quanto detto questa sera, potete farlo all'indirizzo connettive@gmail.com. Buona serata e buone visioni. Beneath my feet, descending into air. The cauldron was bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves. Boys, I've had enough.